sono le 23 in punto, quindi giusto con mezz'ora di ritardo, però ci siamo, eh. E dopo un rinizio a singhiozzo che ci ha fatto saltare la scorsa trasmissione, però siamo tornati ai voi in pianta stabile nella nostra instabilità, eh. Eh sì, siete sintonizzati sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Radio libera nell'etere dal 1977. Radio senza padrini, senza padroni. Oh, il telefono è sempre lo stesso, eh? 0649 1750. E ricordiamo le altre coordinate della radio. Il nostro sito è raggiungibile al www.ondarossa.info, dove oltre che poter ascoltare la radio in streaming e quindi oltre il raggio d'azione dell'FM, siamo ancora scoordinati, eh? Quindi attraverso il sito di Radio Onda Rossa potete trovare le notizie, i redazionali, i podcast delle trasmissioni. Radio che potete contribuire a mantenere in vita, e quindi sottoscrivendo, andando a cliccare su sostieni, sarete indirizzati ad una pagina con tutte le altre coordinate. E potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volci 56 00185 Roma San Lollo. Ho visto che la prima traccia era partita di Spirito Proprio. Loro sono gli Stillborn. Dal loro primo disco del 1989, Necro Spirituals. E questa è Street Satan. Dalle strade della Svezia ci spostiamo per le strade di Roma. E quindi da Torre Maura, Alessandrino. Da un disco del 1993 che è musica di periferia. Loro sono gli Out Out, questa è Combatti nelle strade. Vabbè. 0649 1750, come il Trillo che andava a chiamare un Come Again. Out Out da capo. Thank you. dopo una doppietta base di Out Out, vi andiamo a ricordare un appuntamento. Che ci sarà nella provincia sud a Paliano. In una squallida stanza, arresa, un festival hardcore. Letto, arresa, tra strade dei con un po' di nostri amici. Arresa, sotto un cielo che cade. In questa disperazione. Ed abbiamo Fabio in linea a presentarci questo festival. Fabio. Sì. Ciao Dario. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Paliano Hardcore Fest. Esatto. Sì, questa è la terza edizione, in poche parole, diciamo, di questo evento. Niente, che dire, quest'anno stiamo cercando di tirare su qualcosa di, diciamo, un po' più grande rispetto alle altre volte, che rimaneva magari un po' più circoscritto agli amici della zona, anche se sono comunque, c'è una bella realtà nella zona sud di Roma. Quindi anche nella provincia sud si sta allargando a macchia d'olio. Sì, sì, diciamo che Paliano è appunto un po' un punto nevralgico, perché nelle zone limitrofe non è che ci siano, diciamo, una realtà grande come quella che comunque io sto vedendo a Paliano crescere giorno dopo giorno. Bene, quindi bene. Proprio per questo, diciamo, la cosa è nata abbastanza spontaneamente. No, è bello, insomma, della provincia di Roma se ne parla da diversi anni e conosciamo magari un po' meglio la realtà della Tuscia. Esatto. E dei dintorni di Viterbo. Sì, sì, quindi insomma è interessante che si sposta pure l'asse, si allarga la provincia anche al settore sud. Beh, chi hai citato, diciamo, non a caso, diciamo, loro hanno tra l'altro coprodotto il nostro disco con i Social Trauma, perché, diciamo, è nato subito un ottimo legame insieme a loro. Siamo stati appunto in trasferta con tre macchine partite da Paliano per andare a vedere i Negative Approach anche nella cantina del Goio. Che saluto tutti. Sì, tra l'altro suoneranno anche gli Assedio diciamo in questa edizione del Paliano Hardcore Fest, diciamo uno dei gruppi di punta del Tuscia Clan. E quindi proprio naturalmente scorre l'energia che c'è nell'hardcore. Sì, sì, l'energia della provincia. Bene, bene. Insomma, quando ci sarà questo Hardcore Fest? Allora, l'Hardcore Fest si terrà sabato, diciamo, in circa orario cena. Ci stiamo organizzando già per preparare la cena per tutti, quindi da carne vegana, diciamo per ogni palato. Okay. Niente, cioè, ci terrei comunque a ricordare che questa manifestazione, oltre ad essere appunto una manifestazione hardcore, ma anche una giornata per ricordare il nostro amico Daniele, che è scomparso l'anno scorso e che è dedicata a lui, diciamo, questo evento. Ho capito. Quindi niente, i gruppi sì, più o meno al volo. Allora, suoneranno gli Affluente, Yos, Assedio da Viterbo. Sì, da Viterbo. Social Trauma. E chi ne sto scordando? Me ne sto scordando, no, e Placcaggio, come no, beh, voglia. Vabbè, te li stavi dimenticando apposta. Sì, no, tra l'altro da casa mia si vede un temporale allucinante sopra Colleferro. Quello è il black metal. Penso sia Gabriele che si sia incazzato, certo, in questi istanti. Vabbè, loro è una sorta di setta satanica che c'è a Colleferro. Sì, sì, sì. E quindi anche i Placcaggio. Bene, sì. Che dire, ho letto da qualche parte che anche in caso di pioggia. Sì, e anche in caso di pioggia si terrà proprio nello stesso punto. Noi, diciamo, è il terzo anno che lo organizziamo nel parco vicino Paliano, proprio a due passi da Paliano. Bene, lì a fianco c'è una struttura che ci permetterebbe comunque di stare tutti quanti dentro e in tranquillità, quindi non c'è proprio alcun rischio. Quindi il festival si fa. Il festival si fa. Vabbè, ricordiamo quindi questo sabato dalle ore 20 sì, ci sarà diciamo, una orario cena, poi orario cena. Arriva meglio è. Bene, bene. E qualche indicazione per arrivare sul posto? Allora, da Roma basta prendere l'autostrada A1, uscita Colleferro, dopodiché si svolta direttamente a sinistra, subito a sinistra. Si prosegue diciamo sulla strada provinciale fino ad arrivare su a Paliano, a quel punto dopo una decina di chilometri più o meno c'è un'indicazione, una svolta a sinistra e si arriva. Comunque veramente semplice, non ci sono troppi deviazioni da fare. Beh. Altrimenti Paliano si raggiunge anche tramite la Casilina oppure la Prenestina. Diciamo che Paliano è un po' tipo Centocelle, però prolungando la direzione verso sud. Vabbè, non è cioè saranno 40 minuti di Roma, insomma, sì, ci sì, si arriva. Sì, sì. Mo veramente è un tiro de schioppo. Vabbè, forse l'unica cosa che non abbiamo detto è che Fabio suonerà questo sabato perché suona con i Social Trauma. Sì. E per caso così me lo sono ritrovato nel lettore di sinistra, tra l'altro. E il vostro ultimo disco è perché grazie al free download ci siamo muniti del vostro 1%. Ottimo. E volevi scegliere qualche brano da questo disco? Sceglierei 1% a questo punto, siccome è un po' diciamo la nostra la nostra crew della Paliano Hardcore. Perfetto, va bene Fabio. Ti ringrazio, ci vediamo sabato. Dai, mi ha fatto un sacco piacere. Un invito a tutte e tutti a partecipare. Bella. Alla grande. Ciao raga. Ciao ciao. Ciao. E loro da Paliano. Social trauma 1%. Anche gli OS da Roma. Condivideranno il palco del Paliano Hardcore Fest. E quindi prima si parlava anche della setta black metal che c'è a Colleferro. Eh sì, per i metallari beceri, ci saranno anche i placcaggi hardcore. si parlava anche di provincia prima. E questa è Provincia Placcaggio. O'clock succedono cose strane, perché insomma si capovolgono i ruoli, perché no. Questa sera abbiamo il professore in veste di spirito evocato. Sì, no, pronto, ci sono? Sì. No, è un pochino che ti stavo ascoltando il festival Hardcore, che ci sarà a Pagliano, insomma, comunque questa provincia, come si diceva un tempo, laida, che comunque, esatto, produce, si produce, contagia, alimenti, contagia, sì. Vabbè, insomma, niente, non ci sono stasera, no. Punto di mi piace esserci, sto prendendo ancora un po' di tempo, stai ricaricando le batterie. Sì, no, le batterie sono abbastanza carica, sto mantenendo la carica, diciamo, perché poi appunto bene. Poi l'andremo a consumare invece nelle prossime nel giro di poche trasmissioni. Tu hai già cominciato carico, a quanto ho capito, insomma, pieno di sì. No, no, vabbè, c'è un perché, insomma, molto terra-terra. Però, cioè, non so se è bene dirlo qui per radio, ma in uso privato. Cioè, nel senso, le ferie che ho fatto erano sotto la pioggia, quindi... Ah, perfetto. E niente, mi viene... Sì, no, ma l'uso privato della radio, per me, diventare una costante, gli ascoltatori e gli ascoltatori compagni e compagni lo sanno, quindi... No, va bene, dai, ci vediamo la prossima, ci vediamo, insomma, noi, un modo di dire. Ci sentiamo con gli ascoltatori compagni e compagne il mercoledì prossimo, e credo che, insomma, già avevo in mente più o meno una scaletta che sarà piuttosto puntata su alcune cose punk che mi ero dimenticato, bunkercore sul classico, insomma, vabbè. No, invece una cosa, il motivo vero per cui ho voluto partecipare, ci ho disturbato in questa puntata, ne ho voluto partecipare comunque per ricordare un evento che te mi sembra che dici non mi ricordo, non mi pare, non lo so, e evidentemente anche io non mi ricordo se eri tre. E la presenza in quel lontano 2012, ormai lontano, lontanissimo, però appunto non ci ricordiamo, per noi è lontano. Vabbè, ci abbiamo i mezzi che ci abbiamo, insomma. Sì, celebrati ovviamente. No, era per ricordare appunto un compagno che ha deciso, insomma, di porre fine alla propria vita, ecco, che è una cosa sempre rispettabilissima per qualsiasi persona, nel senso, appunto, noi non siamo nessuno per giudicare le altrui decisioni, specie di questa natura e di questa portata, però è una cosa che comunque ci dispiace, ci colpisce, ci intristisce molto, ecco. Stiamo parlando di Leonardo Vecchiolla, che appunto e voglio ricordare un episodio essenzialmente per aggiungere a quello che probabilmente io sono tornato da poco a Roma, la radio non l'ho ascoltata, quindi la scorsa settimana credo che appunto siano state dette, spese alcune parole su Leonardo. Leonardo era un compagno, un attivista giovane che di Ariano Irpino, che viveva almeno all'epoca di questi fatti a Chieti, ed era stato arrestato a seguito dei fatti del 15 ottobre del 2011. Fu arrestato a Chieti e poi a un certo punto fu trasferito a Roma e a un certo punto suonò si accese di rosso la spia della radio, che sai bene indica, anzi di verde, scusa, la spia della radio che indica che c'è qualcuno alla porta che suona, abbiamo aperto ed era Leonardo, appunto, che era salito in radio e insomma sale su, dice: posso salire? Sono Leonardo Vecchiolla. E quando sei, ma stavi in carcere? Dice: no, sono uscito adesso. Vabbè, ma dove sei stato? No, la prima cosa che ho fatto, sono venuto in radio. E questa cosa qui, insomma, già di per sé mi ha abbastanza piazzato, ecco. Perché appunto Leonardo, per come l'ho conosciuto io, per quei pochi minuti, un'oretta, insomma, che è stato su radio, ci siamo scambiati i contatti, abbiamo cercato di intraprendere, magari di cominciare un percorso futuro appunto per l'epoca, un percorso successivo che poi non è avvenuto, e mi piace una cosa, perché a un certo punto abbiamo detto: beh, Leonardo parla per radio, di che cosa pensi, di quello che vuoi, diciamo, di fronte appunto a questa esperienza repressiva che l'aveva portata appunto in carcere. E lui era un po' indeciso, anche io devo dire la verità, perché appunto ha detto io ho una rabbia interiore che non riesco a a misurare e quindi abbiamo deciso che non avresti parlato in diretta, così, perché appunto la radio ha una sua portata, un suo stile, un suo modo di descrivere le cose che devono essere anche, noi pensiamo insomma, comunque cose importanti devono essere descritte in maniera precisa, in maniera la cosa appunto che poi esprimeva questo ragazzo era appunto che in realtà la razionalità e l'emotività, il cuore, l'anima e lo spirito nel fare le cose sono poi la stessa cosa, e poi ha continuato, aveva progetti, aveva, poi quando si esce appunto da situazioni di reclusione si ha voglia in realtà appena si raggiunge la libertà di fare cose e di metterle una presso all'altra in maniera vulcanica, in maniera così caotica, se vuoi. Sanante. Come? Sanante. Sì. E questa cosa qui, questo averlo conosciuto in questa maniera, poi so che ha fatto un sacco di altre cose appunto in questi anni, una vita piena e una vita dedicata assolutamente a lottare, a combattere, a non creare quella divergenza, quello scarto che esiste tra pensiero e azione, ecco. Lui faceva quello che pensava, quello che diceva, appunto, eliminando anche questo scarto che esiste fra emotività e razionalità. Ecco, questa cosa qui ci riempie ancora di più di tristezza, perché ci rende così, da un certo punto di vista, inspiegabile il gesto che ha fatto. Ho voluto ricordarlo perché per noi è una cosa, ecco, che ci ha profondamente colpito e ci dispiace molto, ecco. Bene. Sì, è difficile. Sì, no. Io direi sì. Gli out già l'hai messi, proprio perché è una vita veloce e rapida, comunque con dell'ottimo punk hardcore riuscivo a uscire dall'impasse, credo, no? No, che poi insomma con il tuo ricordo insomma andavi a ricordare il fuoco di questo compagno. E anche il fuoco di quei giorni, perché poi quei giorni lì in realtà questa generazione, perché in realtà stiamo parlando di questo, in 2 anni sembra che non so, che diciamo le cose non sono cambiate, invece in 2 anni, forse possiamo dire dal 15 dicembre, dal 14 dicembre dell'anno prima, al 15 ottobre, in realtà è nata, sono stati dei fuochi, delle scintille, dei momenti di rivolta che in realtà hanno cambiato la realtà di questo paese, forse non ce ne siamo nemmeno accorti, però è nata una nuova generazione, una generazione di persone che comunque non ha futuro, di giovani, di compagni, che sono poi invece l'anima portante poi di tutte le cose che sono successe in questi anni, cioè dalle lotte contro la TAV e tutte le altre devastazioni. Il professore è caduto. Noi continuiamo. Continuiamo con lo stesso fuoco. Ed eccolo, recuperato il sì. Professore. No, e niente, dai, avevo comunque concluso, dicevo, insomma, una generazione che ha fatto le sue cose, è cresciuta, è maturata, ha fatto i suoi gesti estremi, insomma, ne prendiamo atto e niente, noi pure continuiamo con la trasmissione sull'onda poi di quelle che sono in verità poi i movimenti sociali, le lotte, le battaglie, la vita di tutti e tutte noi, e dai, un buon nuovo anno radiofonico per 25 o'clock. Bene, bene. Ce lo diciamo da soli. E poi invitiamo pure gli altri compagni e le compagne, insomma, a farsi sentire alla radio, ad accendere di rosso la redazione della radio di Rossa. Ma ti ricordi anche il numero? 06 49 17 50. Bene, bene, bella. Bella, a presto. Ciao, ciao, ciao. E noi continuiamo con lo stesso fuoco, perché abbiamo pronti gli Assedio, anche loro al Pagliano Hardcore Fest, e questo è il loro lavoro salariato. Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia. Ma allora mi ha sempre preso per il culo! Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali. Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni. Che vada lavoro per te, altro cattivo, esaltazione del talento umano, ma sei sbogliato, sei soggetto a furtore, è un furto, una truffa, una vita passata a lavorare solamente per farli arricchire, con gasto e no tecnologie che non citano la produzione, ma gli orari mancati si vendicano il tuo intanzino. Pagherato, svuotato, fino a farti sembrare un automa, sempre meno specializzato, sento un pezzo del marchingegno, una vita passata a lavorare, solamente per farli arricchire. Oh, 06 49 17 50. Qualcuno se lo ricorda e va a illuminare. Radio Onda Rossa. E da queste parti significa da capo. Assedio 25 o'clock. Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia. Ma allora mi ha sempre preso per il culo! Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali, per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni. Che vada lavoro per te, atto creativo, esaltazione del talento umano, ma sei sbogliato, sei soggetto a furtore, è un furto, una truffa. pubblicizzano la produzione, ma gli orari non mi fanno spendicano, il corto giro schizzante, manierato, svuotato, fino a farti sembrare un automa, sempre meno specializzato. Sento un pezzo del marchingegno, una vita passata a lavorare solamente per farli arricchire. E alle 23:52 ci arriva la richiesta del bambino Gigio. Che dovrebbe essere a letto. E ci richiede Cult. E loro sono gli Slayer. Vabbè, tagliamo giustamente gli assoli degli Slayer, che qualcuno ha definito come chiudere un gatto in un sacco e buttarlo nell'acqua. Qualcosa di non giusto. Eh no, poi perché arrivano le telefonate di lamentele. Eh sì, quindi dopo che sono stati definiti un gruppo di segaioli, ci ascoltiamo un po' di sano rock and roll, perché lui è il re. Elvis. Questa però è la versione dei Gehenna, Devil in Disguise. Noi torniamo per le strade di Centocelle. Questo è un lavoro di qualche anno fa, Orgoglio Punk. Loro sono i Destroy Your System. E questa è Ansia. Con un carico di morte, ma la gente che ti guarda nemmeno. E noi perchiamo le mezzanotte con i Mefitica. Quanti segreti dipinti su quel petto, su quel petto, quante voci, quante bugie, quante volte. Da loro, della triade sotterranea. Dio, gocce di odio. Mentre sotto già vanno un gruppone. Ed eccomi qua, sotto la pioggia, passi veloci sulla città. Gruppo ahimè sciolto. Loro sono uno degli Screamers. Bevo di più e ballo da solo. Vivo sempre di più. Quindi da un disco del 2008, niente dietro, niente davanti. Quanti segreti da capo? Quanti segreti? Se fatti sotto il velo dei tuoi occhi di piombo. Quanti segreti? Dipinti su quel petto, su quel petto. Quante voci, quante bugie, quante volte quei fantasmi appaiono allo specchio. Gocce di odio che salgono la schiena e colano negli occhi. Ed eccomi qua, sotto la pioggia, passi veloci sulla città. E scivolo via, non esiste nessuno. Schivo gli sguardi, bevo di più e ballo da solo. Vivo sempre di più, sempre più là, oltre i confini. Sotto la pioggia, gocce di sangue sulla città. E quanti segreti, passioni, peccati, porto tutto con me. E scivolo via, tanti saluti, fanculo. E scivolo via. Qualcuno deve parlare a questi ragazzi, che sono una piccola minoranza, che hanno degli obiettivi profondamente sbagliati, che impongono dei costi non soltanto materiali ma anche psicologici alla comunità molto gravi, che si avventano spesso contro le forze dell'ordine, che in un pezzo di quell'intervista sono chiamati gli sbirri, con violenza spesso inaudita, che praticano una forma di eversione. We'll be right back. questi erano i Contrasto infuocati da Cesena, dall'ultimo disco Tornare ai resti, e questa era Più di mille parole. Pensa al suo sorriso da bambino, all'audacia e alla bontà. E noi andiamo a Trento, quella che è diventata nel corso degli anni sinonimo di sicurezza per quello che riguarda l'hardcore. Loro sono i Lud, dal loro primo lavoro, e questa è Come la notte. Penso a quel compagno torturato dalla Gestapo, al suo ritorno per un patto sigillato tra il filo spinato. Penso al suo sorriso da bambino, all'audacia e alla bontà. Siamo i Matarzo, noi, dice, Quindi in piena 25esima ora andiamo a marcire con gli Obituary dal loro Slowly We Rot. Lentamente marciamo. Abbiamo ascoltato Intoxicated, noi rimaniamo nella Bay Area. E visto che Bay Area è sinonimo di trash, noi continuiamo con un disco dal 2007, loro sono i Decapitator, e questa è la calma prima della tempesta. Noi dopo i Decapitator passiamo una richiesta delicatissima da una da Susanna che dai gusti finissimi. Richiede un ci richiede i delicatissimi Mysticum. Questa è la loro Black Magic Mushroom.

E sulle note di questi viaggi notturni da parte dei Darts Ombra, noi lentamente ci avviciniamo alla chiusura delle trasmissioni di questo mercoledì, trasmissioni che torneranno in diretta domani mattina e quindi dalle 8 con la rassegna stampa, per poi proseguire nei redazionali della mattina, il giornale radio delle ore 13, uno spazio comunicazioni, e poi dalle ore 14 Visionari, la trasmissione sul cinema, dalle ore 16 Attica Blues oltre alla Black Music, dalle 17 La Eschina del Soul, poi forse Profondo Rosa, il giornale radio delle 19:30, dalle 20:15 Allegro con Fuoco, la trasmissione di musica classica di Radio Onda Rossa, poi dalle 21 le repliche del nostro Fagiolino, per poi chiudere con i nostri cuginetti di Apostasia dalle ore 22. E questo è tutto, ci risentiamo per mercoledì prossimo con il professore. E noi ci salutiamo sempre, sempre così. dreams